Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Non solo coupon e buoni sconto per chi compra online, si sa, e parliamo di un italiano su tre, il risparmio è la leva più forte. Si sta diffondendo anche in Italia il cashback, il sistema che permette di guadagnare una quota di quello che si spende online. Ve lo raccontiamo attraverso la principale piattaforma italiana dedicata. E poi, quale futuro per i centri commerciali, come stanno cambiando e quali sono i format vincenti? Quando il micro fa tendenza, sono i piccoli oggetti ordinari, protagonisti del focus sui trend di questa settimana dedicato alla poesia del quotidiano. Mi sembra il cassiere della banca di Lali. E conto, ma che conti? Animale, questi soldi... Spendili, divertiti, la vita è breve, si può morire da un momento all'altro, fa come faccio io. Si può anche campare 100 anni. E con questo? Ho detto tutto. A proposito, tu mi devi dare 40.000 lire per la partita d'olio del mese scorso. Ah, quella partita? E quella è partita? No, per me è restata. Ah, e va presto. Beh, c'hai fretta. Tu stesso hai detto prima, si può anche campare 100 anni. Vabbè, ma si può anche morire subito. Fare shopping online e guadagnare una quota di quello che si è speso è quanto permette di fare bestshopping.com, prima piattaforma italiana di cashback che raggruppa retailer importanti come Amazon, Zalando, Yux, solo per citarne alcuni, oltre 1000 tra brand e negozi. Ci spiega come funziona il cofondatore Nicolò Soldani. Il cashback è una formula innovativa di risparmio online, diciamo che innovativa in Italia, perché nei paesi anglosassoni o americani è già presente da diversi anni, ed è una formula molto intelligente. Quello che avviene di fatto è che noi negoziamo degli accordi commerciali con chi vende online, quindi con e-commerce che vendono online, come possono essere Zalando, Yux, Amazon. Con questi negozi noi negoziamo una provvigione sulla vendita, quindi per ogni vendita che noi portiamo a questi siti ci riconoscono una commissione. Pubblichiamo sul nostro sito di cashback, bestshopping.com, questi siti, e di fianco a ogni sito c'è una percentuale di rimborso, che è cosiddetto cashback. Cosa vuol dire? Che se un utente, prima di un acquisto, passa da bestshopping, ci fa guadagnare una commissione, quindi noi restituiamo gran parte di questa, la nostra commissione, all'utente stesso. Quindi noi siamo degli intermediari. I nostri utenti, quando fanno acquisti online, accumulano soldi su un salvadanaio virtuale, su BeShopping. Noi al momento li diamo tramite tre modi: bonifico bancario o PayPal, oppure con un buono regalo di Amazon. Si possono incassare al raggiungimento di 40 euro. Le percentuali variano molto dalle categorie merceologiche dei vari negozianti. Ci sono categorie dove ci sono più margini, quindi dove il negoziante può pagare di più una provvigione su una vendita, come ad esempio i viaggi, le assicurazioni, categorie che magari invece vengono pagate meno, come per esempio i cellulari o il mondo dell'informatica. Per darvi un'idea, sui viaggi siamo intorno al 7-8-10% di commissione, sulla telefonia siamo al 2% di commissione, e quindi noi in base a queste commissioni poi regoliamo il cashback. Quindi su un negozio di cellulari si può avere un 1%, un 1.5% di rimborso. Su invece un acquisto di un hotel, ad esempio su Expedia, possiamo anche dare l'8% sugli hotel. Un utente che spende in media 4.000 euro l'anno, okay, quindi un utente che non spende tantissimo, quindi un utente medio, può ottenere 150-200 euro di rimborsi all'anno. Rimborsi che comunque non ci sarebbero se non passasse da BeShopping, quindi comunque su acquisti che lui farebbe comunque. Abbiamo degli utenti che riescono anche ad accumulare migliaia di euro in un anno, perché a volte fanno acquisti anche per conto di amici o parenti, e quindi riescono a spendere di più e a guadagnare di più ovviamente. Abbiamo veramente un ventaglio di negozi incredibile, nel senso che i più popolari sono Amazon, Zalando, eBay, Yux, Expedia. Adesso poi abbiamo anche Amazon Moda in esclusiva sull'Italia, abbiamo IBS, abbiamo Groupon, abbiamo Italo, abbiamo Booking.com, sono veramente tante. Abbiamo per esempio le ricariche telefoniche con Vodafone. In che misura la leva dello sconto è diventata ormai fondamentale per gli acquisti online? Beh, ormai la leva dello sconto è una delle leve principali sull'acquisto online. Diciamo che in Italia ancora primeggia il codice sconto, quindi l'utente generalmente prima di fare un acquisto cerca un codice sconto o un coupon e non conosce il cashback. La differenza tra il cashback e un codice sconto è che fondamentalmente il codice sconto può essere valido per un periodo limitato di tempo, può essere valido solo per alcuni prodotti, mentre il rimborso, il cashback, è valido sempre, tutto l'anno e su tutto il catalogo del negozio. Ci aspettiamo comunque di crescere ancora molto perché gli utenti che utilizzano questo sistema sono ancora pochi potenzialmente, quindi ci aspettiamo di raggiungere numeri molto, molto più alti nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Online all'offline, parliamo ora di centri commerciali perché si è chiusa da poco Mapic Italy, una finestra importante per il mercato immobiliare commerciale. Ci siamo fatti raccontare le novità e le ultime tendenze da Massimo Moretti, presidente del Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali. Stiamo vivendo la terza rivoluzione nel nostro settore. La prima è stata la nascita, quindi io credo che quello sia stato un evento dirompente. La seconda, quella di esserci affrancati dall'ancora alimentare, cioè il cliente viene al centro commerciale perché c'è il centro commerciale, non perché c'è l'ipermercato. Insomma, l'ipermercato è sempre una componente importante, ma non più l'unico, il primo motivo. La terza rivoluzione è che sfida dell'e-commerce. Quindi del rapporto fra l'offline, che siamo noi, e l'online, è un rapporto che sarà sempre più stretto. Parlo di rapporto, c'è anche una competizione evidentemente, perché, e lo vediamo, la tendenza chi è online alla fine decide che comunque la presenza fisica è comunque importante e viceversa, con processi di acquisto che ormai sono sempre più mischiati, no? Entro nel negozio, provo, manca il colore, manca la taglia, la ordino online. O viceversa, vedo online, vado nel negozio perché voglio vedere esattamente com'è. Oppure anche componenti logistiche, nel senso che ho acquistato online, vado a provarlo, ne ordino tre paia di pantaloni diversi, le devo provare così al limite le restituisco subito. Insomma. Quindi sarà una fortissima interrelazione che andrà sull'emozionale, da una parte, estremo, quindi lo showroom o web room con meccanismi di acquisto vicendevoli, e dall'altra parte su una componente logistica, quindi la gestione della consegna, provare più oggetti, del reso e così via. Quindi questa è la rivoluzione, no? E le tendenze che vivremo in questa rivoluzione e i nostri punti di forza che dovremo sviluppare sempre più è il food and beverage, ecco il senso della sezione molto importante che abbiamo creato, che ha anche attirato molti stranieri all'interno della nostra fiera, dei servizi e del leisure. Cioè tutte componenti diventiamo sempre più contenitori di tempo, più che necessariamente contenitori di acquisti, mi passi. Vengo al centro commerciale perché sto con gli amici, mangio, ho un'ottima offerta ristorativa variegata, al giusto prezzo, posso divertirmi perché comunque ci sono delle attività, sto in un bel posto, riesco anche a ottenere dei servizi che sono tutti lì vicino, che quindi non devo diventare pazzo per il poco tempo che ho per risolvere i miei piccoli problemi quotidiani. Insomma, questo è un po' il mix che poi unisce anche la vendita tradizionale. C'è una caratteristica che fa dei centri commerciali italiani qualcosa di diverso rispetto a quelli internazionali? C'è una peculiarità italiana? Ma allora, in effetti è un prodotto che si sta evolvendo, diciamo, è un prodotto globale che si sta evolvendo un po' in tutto il mondo nella direzione che l'ho accennato. Glielo chiedo, visto anche il primato, insomma, che hanno avuto determinate realizzazioni, penso ad Arese, insomma, che ha vinto un importante riconoscimento. Sì, io credo che il nostro punto di forza sia sulla qualità anche architettonica del prodotto, c'è un gusto italiano, c'è il gigantismo americano, o diciamo arabo, che ha delle caratteristiche, no? E dall'altra parte anche, diciamo, noi abbiamo l'offerta food che gli stessi europei, ma anche al di fuori dell'Europa, vengono qua per cercare dei concetti che evidentemente ci viene facile avere perché le abbiamo in casa, insomma, cioè pensiamo all'evoluzione di quel genio che hanno pensato di fare un negozio tutto sulla polenta, no? Dalla polenta fritta all'hamburger di polenta e così via, ai signori che hanno fatto take away del tortellino, dei primi piatti, insomma. Quindi la possibilità di attingere all'enorme base culturale culinaria italiana per poi farne un'offerta appunto per good value for money, però anche good value in termini di gusto, insomma. Quindi io credo che oltre al fatto dell'ambiente, anche il fatto appunto dell'offerta food. Ora ci fermiamo per una piccola pausa, restate con noi perché nella seconda parte ricominciamo dai piccoli oggetti e dalla poesia del quotidiano che trasforma l'ordinario in straordinario. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Quanto dipendiamo dalla tecnologia nel lavoro e nella vita di tutti i giorni? Sono Enrico Pagliarini e ogni settimana 2024 intervisto i protagonisti dell'innovazione tecnologica in Italia e nel mondo. Tutto quello che devi sapere su realtà virtuale, realtà aumentata e molto altro. 2024 è il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22, domenica alle 13.30 e in edizione podcast con tutte le interviste in versione integrale. Essere e avere. Buongiorno Donny, va tutto bene? No, veramente. A mia figlia serve l'apparecchio ai denti. Devo rifare il cambio alla macchina, mia moglie vuole andare in Florida, ma io devo pagare il mutuo. Mio zio dall'India mi chiede soldi per il matrimonio di mia nipote e io ho una strana eruzione sulla schiena. Non mi manca niente. E tu invece? Tutto ok. Pronto a partire, Patterson? Sì. Quando sei bambino, impari che ci sono tre dimensioni. Altezza, larghezza e profondità, come una scatola da scarpe. Più tardi capisci che c'è una quarta dimensione. Il tempo. Le tue poesie sono veramente belle e un giorno potresti decidere di farle conoscere al mondo. Guardami negli occhi. Tu sei un grande poeta. Focus sui trend. Viene considerato un vero e proprio inno alla poesia del quotidiano l'ultimo film di Jim Jarmusch, Patterson. È l'ispirazione per il focus sui trend di questa settimana, che ci parla di oggetti ordinari legati alla nostra routine quotidiana che grazie all'arte, al design, alla musica o al mondo social diventano straordinari. A suggerirci casi Sabrina Donzelli di Future Concept Lab. Ciao Sabrina, bentrovata. Bentrovata a te e un saluto a tutti. Da dove iniziamo? Direi di iniziare da alcune miniature del quotidiano, con gli oggetti del quotidiano, questa poesia che a volte è nascosta tra le pieghe dei ritmi di ogni giorno. Un giapponese, Tanaka Tatsuya, ha iniziato qualche anno fa questo progetto utilizzando gli oggetti di tutti i giorni. Possono essere alimenti come broccoli, come brioche, oppure spazzolini da denti, quindi quelle cose che tutti i giorni fanno parte del nostro ritmo, e li fa diventare come degli ambienti abitati da personaggi in miniatura, lillipuziani, componendo dei quadri molto curiosi, divertenti. Da queste immagini è stato realizzato un calendario in miniatura da 4 anni. Praticamente ogni giorno lui riproduce una scena per 365 giorni all'anno e la pubblica. Tutto è nato da un commento su Instagram e quindi da uno stimolo di un utente. Io invito le persone a dare un'occhiata a queste scene un po' oniriche, un po' divertite, ma anche molto preziose per entrare nelle possibilità, diciamo, di immaginario di ciò che ci circonda. Abbiamo postato il link e le immagini come sempre sulla nostra pagina Facebook. Sabrina, mi vengono in mente i terrarium, quei contenitori di vetro, di plexiglass per le composizioni verdi che sono diventati complementi d'arredo di tendenza. Sono famosi ad esempio quelli di Terrarium Art con le miniature personalizzate, anche qui un microcosmo che diventa macro, insomma. Esatto, è sempre questo dialogo fra quotidiano e sorpresa, fra usuale e non usuale, micro e macro, e quindi un'immersione un po' creativa, sempre parlando di microcosmi, come tu hai citato adesso questi terrarium. Vorrei portare l'attenzione su un altro caso più recente, anche qua un artista, Matthew Albanese, che propone dei diorami. Anche questi spazi in miniatura sono composti con spezie, ingredienti, anche questi diciamo spesso i nostri ingredienti della cucina, con il sale, ma anche la sabbia, ma anche la cenere, la terra, la plastica, ed ecco, con questi elementi lui compone questi micro diorami, rappresentando però dei paesaggi, delle suggestioni molto forti: oceani in tempesta, foreste luminescenti, vulcani che esplodono. E guardando anche qua dei video di queste composizioni, si fa veramente fatica a pensarli in miniatura e composti da piccole aghi di rosmarino piuttosto che da pezzettini di plastica. È veramente molto, molto interessante come suggestione, quindi non soltanto creativa, ma proprio per portare l'attenzione. Tu hai citato Patterson, sicuramente questo film è stato di grande stimolo, ecco, non soltanto narrativo, ma anche come attenzione al quotidiano. È una lente di ingrandimento, in pratica, che sposta il punto di osservazione, quindi fa scoprire appunto particolari riflessioni diverse. Ritroviamo le piante anche nel prossimo caso. Sì. In questo caso si chiama Le Grow, quindi è legato un po' all'idea della crescita, del coltivare la crescita. È un giardino interno, la possibilità di comporre un micro giardino in casa, su una mensola, sul tavolo, in un angolo, come una piccola serra, con degli elementi che assomigliano un po' ai mattoncini Lego, quindi è veramente un insieme di piccoli moduli che possono essere aggiunti, ma anche dei sistemi, perché di fatto Le Grow è un vero e proprio sistema di giardinaggio. Ci sono dei vasi per far crescere le piante, diciamo, con un sistema ad acqua, ma ci sono anche delle lampade a LED, c'è un umidificatore, e quindi diciamo ci sono tutta una serie di spazi, ma anche tecnologie che possono essere controllate attraverso un tablet, lo smartphone, per gestire al meglio questo spazio verde in casa. Ecco, in questo caso tecnologia e natura non sono in contrapposizione, ma dialogano, anche per costruire secondo un proprio gusto e secondo una propria idea e spazio un angolo verde. Una sorta di Lego per giardinieri, in pratica. Esattamente. Per il prossimo caso invece parliamo di carta da parati. Esatto, rimaniamo in casa, quindi l'ambiente domestico, e anche qua c'è la tecnologia che aiuta a vivere in modo non soltanto più pratico, ma anche più sensorialmente interessante e stimolante un ambiente. Questo è un progetto che è stato presentato a New York questo mese, durante questo incontro che si è terminato il 24, New York for Design, esattamente alla Collective Design Fair. È un prodotto di una carta da parati che mette in luce quelli che sono i conduttori, i sistemi elettrici normalmente nascosti, e quindi l'anima, come dire, elettrica, che normalmente è nascosta da qualche parte, viene esibita e trasformata in elemento grafico. Quindi quelli che sembrano dei motivi in questa carta da parati, anche molto molto bella, molto grafica, sono in effetti circuiti a tutti gli effetti, stampati, usati in chiostro conduttore e completati da inserti in rame. Quindi questo rivestimento presenta anche una lampada, un ventilatore, un altoparlante, una scatola e uno specchio a cerniera che fanno parte proprio dell'intero disegno. È molto interessante questo dialogo fra estetica, sensorialità e tecnologia. È stato presentato questo progetto da una società newyorkese, Flower Paper, insieme a un'altra società che si chiama UM Project. UM è l'acronimo per User e Maker, quindi è proprio l'obiettivo. L'obiettivo è la filosofia di creare un design allo stesso tempo, come dire, preciso, mirato, funzionale, ma anche molto ludico e divertente. E agli oggetti quotidiani, alla natura, si rifà un grande artista nel suo ultimo lavoro che mi hai proposto come caso finale. Di chi si tratta? Si tratta di Ryuichi Sakamoto, un grande maestro che è uscito il 29 aprile con l'ultimo album, Async. Async è il primo album da solista dopo 8 anni di silenzio. In questi anni comunque sono state diverse le realizzazioni, lo ricordiamo anche nella colonna sonora di The Revenant, il film di Naruto, in collaborazione con Alvanotto, una colonna sonora di grande profondità, e altre collaborazioni. Ma come solista sono passati molti anni, e soprattutto questi ultimi anni, a seguito di una malattia molto, molto seria, molto grave, che ha superato, la sua attenzione è andata ancora più alla magia sonora, a un'evocazione di quelli che sono i piccoli oggetti comuni e la bellezza anche modesta ma anche straordinaria di questo quotidiano e della natura nelle sue forme essenziali. Quindi è proprio un omaggio a questi luoghi, a questi spazi di riflessione che restituiscono in qualche modo delle tonalità a elementi e alle sue sperimentazioni, così come Sakamoto ci propone da sempre. Sabrina Donzelli, grazie, alla prossima. Alla prossima. Il consumautore. Questo è il momento della nostra riflessione finale in compagnia, come sempre, di Francesco Morace. Buonasera Francesco. Buonasera Maria Luisa. Di che cosa parliamo? Stasera partiamo da un libro importante sia per l'argomento, il titolo è Le aziende familiari, strategie per il successo, ma anche direi per l'autore, perché uno dei due autori è Thomas Hingelfinger, che è un grande manager tedesco che riflette sulle aziende familiari italiane, quindi come sempre uno sguardo che dall'esterno dimostra la forza anche di un nostro modello che negli ultimi anni è stato anche molto criticato, ma che oggi sta un po' tornando all'attenzione di tanti esperti. Ricordiamolo, anni fa avevamo inaugurato la nostra collaborazione proprio su questi temi, la rubrica all'epoca si chiamava Italian Factor, dal titolo del libro, Francesco, con cui tu focalizzavi le caratteristiche dell'eccellenza italiana che comprendevano appunto anche questo elemento delle dinastie familiari di imprese. Sì, la cosa interessante è che Hingelfinger, da appunto grande manager tedesco che è innamorato dell'Italia, lo si capisce da come scrive, in realtà segnala forse il maggiore elemento di forza delle aziende italiane, diciamo di famiglia, e cioè la continuità, il fatto che le generazioni l'una dopo l'altra possono dare quella forza nella visione che ormai le grandi multinazionali hanno perso o stanno perdendo, perché lavorano esclusivamente sull'obiettivo a breve, mentre lui giustamente dice l'idea di avere comunque un futuro, un orizzonte, che sono i tuoi figli e i tuoi nipoti, dà una grande forza. Lui poi segnala anche naturalmente tutti gli elementi di debolezza che ben conosciamo, diciamo anche una certa allergia alla managerialità, che invece lui indica giustamente come una terapia importante. Il passaggio generazionale proprio per molte aziende è un momento delicatissimo, tra conservazione della tradizione, dell'heritage, della storia di un'azienda e l'apertura alle sfide, quali quelle dell'internazionalizzazione o della digitalizzazione. Ecco, che cosa va conservato, che cosa va invece proiettato in avanti? Va, credo, conservata la dimensione emozionale, emotiva, che comunque la famiglia ti dà, e che in Italia abbiamo molto forte, ma va invece assolutamente acquisita una visione di competenza, di apertura al nuovo, ecco, non aver paura di perdere le radici. Le radici non si perdono mai, non, poi in realtà non siamo alberi, quindi non è che possiamo rimanere fermi, però ecco, questo senso della memoria forte che ti dà la famiglia, che deve però assolutamente incrociarsi col mondo delle nuove tecnologie, delle nuove sfide, con l'internazionalizzazione. E questo, devo dire, indicato da qualcuno che non è italiano, diventa ancora più potente come elemento chiave. Grazie a Francesco Moracci e grazie a Filippo Aureggi in regia. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. A domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.